sbagliato, sono rimasto lo stesso da tempo remoto. Ora faccio il cantante, ma di solito nuoto. Ho una vita da sogno e per di più finalmente posso navigare, messaggiare illimitatamente. Sociale, ma pur sempre animale, io canto le scale mentre salgo le scale. Amo fare due cose contemporaneamente, come navigare e messaggiare illimitatamente. Col suo buio cocente mi piace un futuro che sia più presente. Mi piace essere sazio senza mangiare niente, perché tanto tra poco cenerò da un parente. Se hai capito il concetto è perché sei intelligente, potrai navigare, messaggiare illimitatamente. Esigente, mi accontento di poco, faccio i giochi nell'acqua mentre scherzo col fuoco. La mia banda è grandissima, c'è un sacco di gente con cui navigare, messaggiare illimitatamente. Ho cantato le cose che mi vengono in mente, ora tocca a voi cose.